voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. 14ª puntata. Filantropia professionale e dilettantistica. Chris Parkle si recò a Staple Inn, ma non a trovare PJT e il signor Grugius. Salì un bel po' di scalini scricchiolanti prima di arrivare a un piccolo alloggio d'angolo all'ultimo piano, alzare il saliscendi della porta e trovarsi accanto al tavolo di Neville Landless. Un'aria di ritiro e solitudine pervadeva le stanze e l'inquilino, consunte le une e consunto l'altro. I soffitti spioventi, le serrature, le grate massicce, coperte di ruggine, i pesanti cassoni e i travi di legno in lenta decomposizione davano l'idea di un carcere e lui aveva la faccia smunta di un carcerato. Eppure il sole splendeva attraverso il brutto abbaino con la tettoia sporgente sopra le tegole e sul parapetto saltellavano alcuni passeri appartenuti al luogo, reumatici e illusi, come piccoli storpi piumati che avessero lasciato le grucce nel nido. E lì vicino un gioco di foglie vive cambiava l'aria, producendo una sorta di musica imperfetta che in campagna sarebbe stata una melodia. Nelle stanze c'era poco mobilio, ma una buona scorta di libri. Tutto lasciava intuire che era l'alloggio di uno studente povero. Dall'affettuosa luminosità dello sguardo che Chris Parkle rivolse ai libri nell'entrare, si capiva facilmente che era stato lui a sceglierli, prestarli o donarli, o tutte e tre le cose insieme. «Come va, Neville?» «Mi faccio animo, signor Chris Parkle. E lavoro di buona lena. Vorrei che non avessi quegli occhi lucidi e dilatati», disse il canonico, lasciando lentamente la mano che aveva preso tra le sue. «Diventano lucidi quando vi vedo», rispose Neville. «Se mi abbandonaste, diventerebbero subito opachi». «Forza e coraggio», esclamò l'altro in tono di incitamento. «Tieni duro, Neville. Se stessi morendo, sento che una vostra parola potrebbe rianimarmi. E se mi si fermasse il polso, il vostro tocco potrebbe farlo battere di nuovo», disse Neville. «Comunque mi sono fatto coraggio e sto andando magnificamente». Chris Parkle lo fece girare un po' più verso la luce. «Qui voglio vedere un colorito più acceso, Neville», disse indicando le sue guance sane a mo' di esempio. «Voglio che tu stia più al sole». Neville si avvelì di colpo mentre rispondeva abbassando la voce. «La forza per far questo ancora mi manca. Può darsi che mi venga, ma ancora non ce la faccio. Se aveste percorso quelle strade di Cloisterham come ho fatto io, se aveste visto come ho visto io quegli occhi che guardavano altrove e quelle persone per bene che in silenzio mi lasciavano troppo spazio per passare perché non le sfiorassi e non mi accostassi, capireste perché non posso uscire di giorno». «Mio povero ragazzo», disse il canonico in tono talmente partecipe che il giovane gli prese la mano. «Non ho mai detto che non capisco e nemmeno l'ho mai pensato, ma vorrei che tu uscissi. E questo mi darebbe il motivo più valido per farlo, ma ancora non posso. Non riesco a convincermi che il fiume di gente che mi passa accanto in questa immensa città non mi guardi senza sospetto. Mi sento infetto e marchiato, anche quando esco, come faccio adesso, solo di notte. Ma di notte mi copre il buio e questo mi dà coraggio». Chris Parkle gli mise una mano sulla spalla e rimase in piedi a guardarlo. «Avessi potuto avrei cambiato nome, ma come mi avete fatto saggiamente notare voi, non posso farlo, perché sarebbe un'ammissione di colpa. Me ne fossi potuto andare in un posto lontano, ne avrei tratto sollievo, ma nemmeno a pensarci, per lo stesso motivo. In entrambi i casi direbbero che mi nascondo o scappo, È ben faticoso essere messo al palo pur essendo innocente, ma non mi lamento. E neanche ti devi aspettare un qualche aiuto miracoloso, Neville, disse Crisparkle in tono compassionevole. No, signore, questo lo so. Posso solo sperare nel naturale maturare del tempo e delle cose. Alla fine ti sarà resa giustizia, Neville. Ne sono persuaso e spero di vivere fino a quel giorno. Comunque è un'ottima occasione per studiare. E voi lo sapete, signore, quanto ne ho bisogno in tutti i campi. Senza considerare il vostro consiglio di dedicarmi soprattutto al difficile studio della legge. E naturalmente lo seguo il consiglio di chi mi dà tanto affetto e tanto aiuto. Tanto affetto e tanto aiuto. Prese la mano che gli stringeva la spalla e gli dava forza e la baciò. Crisparkle guardò i libri con occhi appagati, ma meno radiosi di quando era entrato. Visto che non me ne parlate, immagino che il mio tutore di un tempo mi sia avverso. Il canonico rispose: Il vostro tutore di un tempo è una persona del tutto irragionevole. E per una qualsiasi persona ragionevole è del tutto indifferente che sia avverso o perverso o retroverso. Meno male che ho quanto mi basta per vivere in economia, sospirò Neville con aria stanca e insieme serena. Mentre passo il tempo a studiare e aspetto di avere giustizia. Altrimenti potevo ben dire campa cavallo che l'erba cresce. Parlando, aprì qualche libro e presto si immerse nei suoi appunti e nelle annotazioni a margine dei paragrafi, mentre Crisparkle gli sedeva accanto spiegando, correggendo, consigliando. Queste visite gli erano rese difficili dai doveri alla cattedrale e riusciva a effettuarle solo a intervalli di molte settimane. Ma per Neville Landless erano sia utili che preziose. Quando ebbero concluso l'argomento di cui si stavano occupando, si affacciarono al davanzale e guardarono il pezzetto di giardino giù in basso. «La prossima settimana», disse Crisparkle, «non sarai più solo e avrai una compagna devota». «Eppure», replicò Neville, «questo mi sembra un posto così poco adatto a farci venire mia sorella». «Non sono d'accordo», disse il canonico. «Qui c'è un dovere da compiere». Qui c'è bisogno della sensibilità, del buon senso, del coraggio di una donna. Volevo dire, spiegò Neville, che tutto qua intorno è così deprimente, poco femminile, e che Elena non potrà trovare un'amica o una compagnia adatta. Devi solo pensare, disse Crisparkle, che qui ci sei tu e lei deve farti uscire alla luce del sole. Rimasero per un po' in silenzio, poi Crisparkle riprese. Quando abbiamo parlato insieme per la prima volta, Neville, mi hai detto che tua sorella aveva superato le miserie della vostra vita passata molto meglio di te e l'hai paragonata alla torre della cattedrale di Cloisterham che sovrasta con la sua altezza i camini della canonica. Te ne ricordi? Molto bene. A quel tempo ero incline a considerarla un'esagerazione poetica. Non importa cosa ne penso ora, ma ciò che mi preme mettere in evidenza è che tua sorella è un modello prezioso e necessario in tema di orgoglio. Lo è in qualsiasi tema che concorra a formare un buon carattere. D'accordo, ma considera questo singolo punto. Tua sorella ha imparato a dominare l'orgoglio che è nella sua natura. Riesce ad averne il controllo, anche quando lo sente ferito, per l'amore che ti porta. Sicuramente ha sofferto intensamente in quelle stesse strade dove tu hai sofferto. Sicuramente la sua vita è oscurata dalla nube che oscura la tua. Ma piegando l'orgoglio in una magnifica compostezza, priva di aggressività o superbia, una ferma fiducia in te e nella verità, si è conquistata il diritto di passare per quelle strade e oggi le percorre, rispettata da tutti. Come qualunque altra persona. Dalla scomparsa di Edwin Drood, ogni giorno, ogni ora della sua vita ha dovuto affrontare cattiveria e follia per te, come solo una natura impavida e controllata può fare. Così sarà fino alla fine. Un altro, più debole genere di orgoglio, potrebbe affondare col cuore a pezzi, ma mai un orgoglio come il suo, che non si tira indietro e non si impone. Il pallido volto accanto a lui arrossì a quel confronto e alle sue implicazioni. «Farò tutto quello che posso per imitarla», disse Neville. «Fallo e sii un uomo di vero coraggio, come lei è una donna di vero coraggio». «Si sta facendo buio. Vuoi fare un pezzo di strada con me quando sarà buio del tutto? Bada, non sono io che aspetto il buio». Neville rispose che l'avrebbe accompagnato subito, ma Crisparkle disse che doveva fare una scappata da Grugius per una visita di cortesia. Dopo potevano incontrarsi al portone, se a Neville andava a discendere. Grugius, al solito dritto come un fuso, sedeva alla finestra aperta sul crepuscolo, sorseggiando il suo vino. «Come state, reverendo signore? E come se la cava il vostro protetto dall'altra parte della strada, nell'appartamento che ho avuto il piacere di indicarvi?» Crisparkle rispose appropriatamente. «Sono lieto che vi aggradi», disse Grugius, «perché mi è venuto il capriccio di tenerlo sott'occhio». Dato che Grugius doveva guardare un bel po' in su prima di poter scorgere l'appartamento, la frase andava presa in senso figurato e non letterale. «E come avete lasciato il signor Jasper, reverendo signore?» Crisparkle l'aveva lasciato piuttosto bene. «E dove avete lasciato il signor Jasper, reverendo signore?» Crisparkle l'aveva lasciato a Cloisterham. «E quando avete lasciato il signor Jasper, reverendo signore?» «Quella mattina». «Bah», disse Grugius, «e per caso non ha detto che sarebbe venuto?» «Venuto dove?» «Da qualche parte, tanto per dire». «No». «Perché è qua», disse Grugius, che aveva posto tutte quelle domande lanciando sguardi preoccupati fuori dalla finestra. «E non ha un aspetto gradevole, vero?» Crisparkle stava allungando il collo verso la finestra quando Grugius aggiunse: «Se volete gentilmente passare qui dietro di me nel buio della stanza e dare un'occhiata alla finestra del pianerottolo al secondo piano, in quella casa là, penso che non vi sfuggirà un individuo che si muove di soppiatto, in cui riconosco il nostro amico di provincia». «Avete ragione», esclamò Crisparkle. «Bah», disse Grugius. Poi aggiunse, girando la faccia di colpo e rischiando di far entrare in collisione le loro due teste: «Cosa dite che stia tramando il nostro amico di provincia?» Tornò in mente a Crisparkle, con la forza di un contraccolpo, l'ultimo passo del diario che gli era stato mostrato e chiese a Grugius se gli pareva possibile che Neville venisse molestato tenendolo sotto sorveglianza. «Sorveglianza», ripeté Grugius pensieroso. «Sì. La qualcosa sarebbe di per sé una persecuzione e una tortura quotidiana», disse infervorato Crisparkle. «Ma lo esporrebbe anche al tormento di un sospetto mai sopito, qualunque cosa faccia e dovunque vada». «Sì», disse Grugius, ancora pensieroso. «È lui quello che vedo? Vi sta aspettando?» «Sì, è lui». «E allora sarete tanto cortese da scusarmi se mi alzo e vi accompagno alla porta, e uscite a incontrarlo e vi incamminate per la vostra strada senza far caso al nostro amico di provincia», disse Grugius, «perché sapete, mi è venuto il capriccio di tenere lui sott'occhio stanotte». Crisparkle, con un significativo cenno del capo, acconsentì e, raggiunto Neville, se ne andò con lui. Cenarono insieme e si separarono alla stazione ferroviaria non ultimata. Crisparkle per tornarsene a casa e Neville per percorrere strade, attraversare ponti, girare a lungo per la città nel buio amico e sfinirsi. Era mezzanotte quando tornò dalla sua esplorazione solitaria e salì le scale di casa. La notte era soffocante e le finestre dei pianerottoli erano spalancate. Arrivando in cima, rabbrividì fugacemente per la sorpresa, essendo le sue le uniche stanze lassù, di trovare uno sconosciuto seduto sul davanzale, più simile nei modi a un vetraio temerario che a un esecutore dilettantesco normalmente attento all'osso del collo, di fatto tanto più fuori dalla finestra che dentro, da far pensare che fosse salito lungo la grondaia piuttosto che dalle scale. Lo sconosciuto non disse nulla finché Neville non ebbe infilata la chiave nella serratura. Poi, essendosi evidentemente assicurato della sua identità, grazie a quel gesto, parlò. «Vi chiedo scusa», disse scostandosi dalla finestra con un'aria franca e cordiale e con un tono amichevole. «I fagioli!» Neville era del tutto disorientato. «Rampicanti», disse il visitatore. «Scarlatti! Appartamento a fianco, sul retro!» «Oh!» rispose Neville. «E la reseda e le violaciocche?» «In persona!» «Prego, accomodatevi!» «Grazie!» Neville accese le candele e il visitatore si sedette. Un signore attraente, con un viso giovane rispetto al corpo più maturo, robusto e largo di spalle, diciamo un uomo sui 28-30 anni al massimo, talmente abbronzato che il contrasto tra il volto bruno e la fronte bianca, protetta all'aperto dal cappello, e la gola bianca, intravista sotto la sciarpa, sarebbe risultato quasi ridicolo se non fosse stato per le tempie spaziose, i luminosi occhi azzurri, i folti riccioli bruni e il sorriso smagliante. «Ho notato», disse, «mi chiamo Tartar». Neville chinò la testa. «Ho notato, scusatemi, che ve ne state quasi sempre chiuso in casa e mi pare che vi piaccia il mio giardino aereo. Se voleste godervelo un po' di più, potrei tendere tra le mie finestre e le vostre fili e funi a cui i rampicanti si avvolgerebbero subito. Ho delle cassette di reseda e di violaciocche che potrei spingere lungo la grondaia fino alle vostre finestre e ritirare indietro quando vanno innaffiate o curate, per poi rimandarvele una volta a posto, così non avreste fastidi. Non mi potevo prendere questa libertà senza il vostro permesso e così son qua a chiedervelo. Tartar, appartamento corrispondente sul retro. Siete molto gentile». «Niente affatto, vi prego di non pensarlo. E scusarmi per essere comparso a quest'ora, ma avendo notato, scusatemi, che di solito uscite la sera, ho pensato che vi avrei incomodato di meno aspettando il vostro ritorno. Ho sempre paura d'essere d'incomodo a uomini indaffarati, visto che sono un tipo ozioso. A guardarvi non si direbbe. No? Lo prendo come un complimento. In realtà sono stato in marina e quando me ne sono andato avevo il grado di tenente di vascello. Ma visto che uno zio, insoddisfatto del suo servizio in mare, era disposto a lasciarmi il suo patrimonio a patto che mi congedassi, ho accettato l'eredità e mi sono congedato. Di recente, immagino. Beh, dopo aver girato in lungo e in largo per 12 o 15 anni, qua ci sono venuto pressappoco 9 mesi prima di voi. Ho fatto un solo raccolto prima del vostro arrivo. Questo posto l'ho scelto perché, avendo prestato il mio ultimo servizio su una piccola corvetta, sapevo che mi sarei sentito più a casa se avevo la costante opportunità di sbattere la testa contro il soffitto. E poi, a un uomo che è stato per mare fin da bambino, non si addice il lusso tutto di un colpo. E poi ancora, visto che per tutta la vita non ho avuto che un piccolo appezzamento di terra, ho pensato che potevo impratichirmi nell'amministrazione di una grossa proprietà, cominciando dalle cassette». Nella stravaganza di quel discorso c'era un tocco di allegra serietà che lo rendeva doppiamente stravagante. «Comunque», disse il tenente, «di me ho parlato più che a sufficienza. Non è il mio modo di fare, spero proprio di no. È stato solo per presentarmi a voi con naturalezza. Se mi concedete la libertà che vi ho detto, sarà un atto di carità, perché avrò qualcos'altro da fare. E non dovete pensare che vi comporti disturbo o intrusione di alcun genere, perché non ha affatto questa la mia intenzione». Neville rispose che gli era molto obbligato e che accettava con riconoscenza la sua gentile proposta. «Sono ben lieto di prendere a rimorchio le vostre finestre», disse il tenente. «Per quel che ho visto di voi praticando il giardinaggio, mi siete sembrato, scusatemi, un po' troppo studioso e delicato. Posso chiedere se avete problemi di salute?» «Sono le pene dell'animo», disse Neville, confuso, «a darmi quest'aria malata». «Perdonatemi», disse Tartar. Con la massima delicatezza riportò il discorso sulle finestre e chiese se poteva darci un'occhiata. Quando Neville ne aprì una, saltò fuori all'istante, come se si precipitasse in coperta con tutto il corpo di guardia durante un'emergenza e volesse dare valorosamente l'esempio. «Per amor del cielo!» gridò Neville. «Fermatevi! Tutto a posto!» disse il tenente in cima al tetto, guardandosi tranquillamente intorno. «Tutto lindo e lustro quassù. Fili e funi saranno ben tesi prima che vi affacciate domattina. Posso prendere questa scorciatoia per tornare a casa e darvi la buonanotte?» «Signor Tartar!» urlò Neville. «Vi prego, mi vengono le vertigini solo a guardarvi!» Ma Tartar, con un gesto di saluto e l'agilità di un gatto, si era già immerso nel suo boccaporto di rampicanti scarlatti, senza rompere una foglia, ed era andato sotto coperta. Nello stesso momento Grugius, tenendo scostata con la mano la persiana della sua stanza da letto, si trovò a dare un'ultima occhiata alle stanze di Neville per quella notte. Fortunatamente il suo sguardo indugiò sul davanti della casa e non sul retro, altrimenti il fenomeno di questa stupefacente apparizione e sparizione gli avrebbe impedito di dormire. Ma dato che lassù Grugius non vide nulla, neppure una luce alle finestre, dalle finestre il suo sguardo vagò verso le stelle, come se volesse leggervi qualcosa che gli era tenuto nascosto. Molti di noi vorrebbero farlo, se potessero, ma nessuno di noi conosce le lettere delle stelle. E neppure sembra probabile che mai vi riesca in questo stadio dell'esistenza. E poche lingue si possono leggere senza prima conoscerne l'alfabeto. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.